vale la mia vita. È rimossa negli occhi tuoi, ah, occhi. Sorriderò se non a te. Fatto male, lasciandomi solo così, ma non importa, io ti aspetto. Ti aspetto.